Veramente, è stata un'artista straordinaria. Lei nasce nel 1788, ma di fatto è un'artista dell'Ottocento, perché muore nel 1840, molto giovane in realtà. Siamo all'inizio dell'Ottocento e lei è la prima donna a Bologna ufficialmente ad entrare all'Accademia di Belle Arti nel 1804, dopo che era entrato il padre Filippo, che è anche lui un valente pittore. Lei riesce ad entrare con grandissime difficoltà, perché naturalmente era una donna, quindi ovviamente c'è questo tema che viene affrontato durante la mostra, e riesce ad entrare, ma viene, diciamo, sistemata non con gli uomini, naturalmente gli altri suoi colleghi, ma nell'aula della Pinacoteca, perché ovviamente viene relegata, ma dove lei ha occasione di imparare moltissimo, che lei è veramente una valente pittrice, e addirittura nel 1807, nonostante le difficoltà, riesce a vincere il piccolo premio curlandese nel 1807, quindi veramente un'artista straordinaria. Forte di questo, riesce a contattare Antonio Canova e il viceré Eugenio de Beauharnais e riesce ad entrare all'Accademia del Regno d'Italico a Roma. Quindi lei riesce ad ottenere un lasciapassare, non è un lasciapassare naturalmente, ma è un sostegno, perché lei si era rivolta, diciamo, ai superiori di tutti, certo, no? Senza passare dal basso, era andata sopra, e a fare questi 3 anni molto importanti a Roma, dove ha l'occasione di vedere e di conoscere e di abitare con gli artisti più importanti, con Palagi, con Canova, con Hayez, con Antolini, con il meglio del meglio naturalmente, e lei è l'unica donna. Abbiamo prestiti istituzionali, quindi Uffizi, ok, tra parentesi, Pinacoteca, con un'opera restaurata dalla Pinacoteca, un grande sostegno di tutti, e quindi non c'è che venire a vedere la mostra. Ecco, questa volta sarà protagonista e non messa da parte. No, veramente, davvero una donna straordinaria, e con cui il Museo 800 vuole iniziare un percorso dedicato alle donne, perché è molto importante, ci sono tantissime donne nell'Ottocento, le conosciamo già nel 500-600, grazie appunto anche a Vera Fortunati, per esempio, che è nel Comitato Tecnico Scientifico. Cito per esempio Lavinia Fontana, ovviamente Properzia De Rossi, Elisabetta Sirani, però nell'Ottocento andiamo un po' più avanti, no? Ragioniamo e guardiamo chi c'è, e ci sono veramente delle valenti pittrici.